Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Intercettazioni, la commissione rinvia ipotesi di slittamento a settembre, l'inchiesta sulla P3. Carboni pagava Verdini, scrivono gli inquirenti nelle carte. Sequestrata a Milano l'area, Monte City, Rogoredo. 9 anni fa a Genova moriva Carlo Giuliani durante gli scontri al G8. In apertura al DDL intercettazioni, la commissione rinvia con ipotesi di slittamento a settembre. Maggioranza ancora alla ricerca di un accordo interno sulle intercettazioni. Alla Camera stamattina è slittato l'inizio dei lavori della Commissione Giustizia, dove oggi è atteso il parere del Governo sugli emendamenti presentati al disegno di legge. Modifiche necessarie anche dopo il richiamo del presidente Napolitano, ma sulle quali restano ancora le distanze con la minoranza finiana, in particolare sulle norme che riguardano la libertà di stampa. Il Ministero della Giustizia è impegnato in queste ore in una mediazione, ma di fronte alle difficoltà si fa strada anche l'ipotesi di un rinvio del provvedimento a settembre. Questo nonostante l'ottimismo del premier Berlusconi, che ieri sera a Milano era tornato a parlare di intercettazioni. Siamo alla vigilia dell'approvazione di una legge, per esempio, sulle intercettazioni, che sta in Parlamento da 2 anni e mezzo e ancora non siamo riusciti a trovare l'accordo di tutti coloro che devono intervenire nell'approvazione della legge. Penso che ce la faremo. L'ennesimo rinvio dimostra che la maggioranza continua ad avere dei problemi e vacilla, commenta dall'opposizione la democratica Ferranti. La maggioranza è avvitata, aggiunge anche l'Italia dei Valori, che definisce abominevole la legge sulle intercettazioni. Andrea Viali, GR24, il Sole 24 Ore, Roma. L'inchiesta sulla cosiddetta P3, una contabilità parallela per effettuare almeno 4 operazioni sospette. È una sorta di cassaforte che Flavio Carboni e la sua organizzazione avrebbe utilizzato per finanziare i palazzi della politica. E in almeno 3 circostanze i carabinieri del ROS sono convinti anche di avere identificato il beneficiario finale che in questa inchiesta è indagato per corruzione. La conclusione dei carabinieri è che parte di titoli finanziari veicolati da Carboni sono stati con ogni probabilità negoziati dal parlamentare del Popolo della Libertà, Denis Verdini, e da persone da lui stesso delegate. Si parla di un giro di assegni da oltre 1 milione di euro. A Milano è stata sequestrata l'area Monte City Rogoredo per inquinamento. Da zona industriale a grande area residenziale, dalla griffa di un archistar ai sigilli della Guardia di Finanza, dalle pubblicità dei futuri prati verdi agli scavi attuali pieni di acciaio e rifiuti, anche cancerogeni. Storia recente del progetto Monte City, firmato dall'architetto Norman Foster. Sull'area del gruppo Zunino si abbatte una nuova tegola giudiziaria, il sequestro preventivo per sospette cariche abusive e inquinamento della falda acquifera. 9 le persone indagate dalla Procura di Milano, compreso lo stesso immobiliarista, il direttore generale della società Risanamento e l'ex numero 1 di Sadi, Grossi. Insomma, chi quei terreni, un tempo occupati da Montedison e Redaelli, li possiede e chi quelle bonifiche avrebbe dovuto farle e invece, secondo l'accusa, non le ha fatte del tutto, lasciando che mercurio, solventi e tricloro vari inquinassero terreni e falde acquifere. Foto aeree allegate al dispositivo del sequestro immortalerebbero anche scavi riempiti poi con residui delle acciaierie. Su quell'area sorge già il parco Trapezio, ai cui confini si trova pure un asilo, e a questo punto bisognerà capire su quale terra poggi. I primi residenti della zona già più volte in passato hanno fatto sentire la loro voce, anche quando, ad ottobre, proprio nell'indagine sulle bonifiche di quest'area, erano state già arrestate 5 persone. Raffaella Calandra, GR24, il Sole 24 Ore. Presentato il rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno 2010, al sud c'è sempre meno lavoro, il prodotto interno lordo torna a livelli di 10 anni fa, il 14% delle famiglie meridionali vive con meno di 1000 euro al mese. Continua a calare il numero degli incidenti mortali sul lavoro, che tocca il minimo storico. Nel 2009 sono stati 1050 i decessi, in flessione del 7% sul 2008, quando erano stati 1120, un numero basso mai registrato all'inizio delle relative rilevazioni statistiche nel 1951. Il gruppo Nestlé, che in Italia occupa circa 5.300 dipendenti, ha sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali per sviluppare il telelavoro in azienda. Con la firma di questo accordo, spiega una nota, prenderà il via una fase sperimentale con l'obiettivo di offrire ai dipendenti di tutte le sedi del gruppo in Italia che svolgono le proprie attività mediante l'uso di strumenti telematici la possibilità di organizzare il lavoro in maniera flessibile, alternando specifici momenti di presenza in azienda al lavoro da casa. La cronaca e la memoria: 9 anni fa a Genova veniva ucciso Carlo Giuliani durante i durissimi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al margine dei lavori del G8. Le 17:20 del 20 luglio 2001. Mentre i potenti della terra sono riuniti a Palazzo Ducale per il G8, in interi quartieri da ora impazzano gli scontri tra polizia e manifestanti no global. Incendi, assalti ai negozi, feriti, cariche e lacrimogeni. In piazza Rimonda un gruppo di giovani va all'assalto di una jeep dei carabinieri. Un giovane militare spara, un proiettile centra ed uccide Carlo Giuliani. Sono passati 9 anni, oggi presidio e concerto in piazza Rimonda, domani fiaccolata fino alla scuola Diaz. Il ricordo di quei giorni rimbomba tra verità processuali contraddittorie, polemiche politiche, dibattiti e convegni. Nei mesi scorsi in appello le sentenze per il blitz alla scuola Diaz e per le violenze alla caserma di Bolzaneto hanno ribaltato il verdetto di primo grado. Pene inasprite per i poliziotti, riconosciuti colpevoli anche i dirigenti. Stessa sorte per l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, condannato per induzione alla falsa testimonianza. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. Facciamo il punto in questo servizio sui sequestri ai danni del clan dei Casalesi. L'ultimo è avvenuto proprio questa mattina. Ennesimo colpo all'impero finanziario dei Casalesi. Questa mattina infatti la DIA di Napoli ha eseguito 2 decreti di sequestro beni che riguardano il patrimonio di Immacolata Cangiano, 50 anni, di Maddaloni, affiliata alla clan Belforte, attivo nel territorio di Marcenise in provincia di Caserta, nonché quello di Antonio Santamaria, 35 anni, di Cancello Arnone, affiliato al gruppo Zagaria, sempre dei Casalesi. Il valore dei beni sottoposti a sequestro supera il milione di euro, come ci racconta il vice capo centro della di Napoli, il tenente colonnello Silvio Durante. 2 fazioni del clan dei Casalesi, una facente capo a Michele Zagaria e l'altra facente capo al clan Belforte, operante sul territorio di Marcianise. Per quanto riguarda il clan Belforte, è stato sottoposto a sequestro i beni che facevano capo a la signora Cangiano, sorella di Michele, detto Michele Ocusumiello, che era il capozona del clan Belforte, che fu assassinato nell'agosto del 2000 a San Nicola la Strada. Mentre l'altra parte del sequestro riguarda Santa Maria Antonio, che come detto precedentemente era facente parte della fazione di Michele Zagaria. Solo nel 2010 i sequestri operati dalla DIA di Napoli ai danni del clan dei Casalesi sfiorano il miliardo di euro. Una cifra di non poco conto che fa ritenere le forze dell'ordine di essere arrivati a un buon punto nella lotta al clan casertano. Ma secondo noi a buon punto, però c'è molto altro da fare e quindi questo è l'obiettivo principale della direzione investigativa a livello nazionale e quindi per quanto ci riguarda a livello locale, perché nel tempo sicuramente hanno accumulato ingenti patrimoni che chiaramente stiamo cercando, attaccando tutti i componenti, di sequestrarli e sfruttarli dalla loro disponibilità. Però è un cammino ancora lungo da percorrere e chiaramente è questo l'obiettivo principale che ci prefiggiamo. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Chiusura allo sport, il calcio per il Milan, una giornata di raduno dopo un anno di durissime delusioni. Studio Dario Ceccarelli. Sì, buongiorno, come hai detto tu Daniele, un anno di grandi delusioni, ma soprattutto è il presente che preoccupa, perché non si vedono investimenti, non c'è progetto, non c'è fiducia in una società che in passato invece è sempre stata innovatrice. E quindi oggi a questo raduno, dove arriverà anche Berlusconi, quindi il grande contestato in fondo, perché lui è stato l'artefice del grande Milan e quindi giustamente viene contestato dai tifosi che vedono in lui un po' il grande assente. C'è stata anche una contestazione proprio davanti ai cancelli, alcuni tifosi, centinaia della curva sud, hanno anche letto un comunicato in cui si lamenta appunto la grande assenza di Berlusconi in questi ultimi mesi dalle vicende del Milan. C'è anche preoccupazione poi poi per chi andrà via, Ronaldinho è incerto, pare che sia richiesto da Los Angeles Galaxy, poi e comunque non si vede una politica di acquisti. In tutto questo si vedrà oggi cosa dice Berlusconi, certo il futuro non è molto roseo. Grazie a Dario Ceccarelli. Alessandro Petacchi, veniamo al ciclismo, è indagato per utilizzo di sostanze e pratiche vietate. Oltre a quello del corridore della Lampre ci sono i nomi di almeno altri due ciclisti professionisti. Tale persone segnalate dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Padova nell'inchiesta per doping. E ora il Tour de France. Petacchi avvisato, Basso ammalato. Petacchi raggiunto poco prima dell'inizio del Tour da un avviso di garanzia per utilizzo di sostanze e pratiche vietate nell'ambito dell'inchiesta padovana condotta dal PM Benedetto Roberti con la Guardia di Finanza e i NAS di Firenze. Vincitore delle tappe di Bruxelles e Renza, Leggette è accusato di aver assunto albumina umana e PFC. Ora il suo dossier è sul tavolo della procura antidoping del CONI per essere esaminata. Rischia 2 anni e per lui significherebbe la fine della carriera. Piove invece sul bagnato in casa Basso. Le condizioni del corridore varesino infatti non sono per niente buone. Il senso di debilitazione avvertito dal corridore ieri è sintomo di una tracheobronchite acuta con modesto rialzo febbrile, ha spiegato il dottore Emilio Magni. Da ieri sera il varesino ha iniziato una terapia antibiotica e antinfiammatoria. Questa mattina il vincitore del Giro d'Italia prenderà comunque regolarmente il via. Oggi in programma c'è niente meno che il Tourmalet. Piero Augusto Stadio, Giro 24, Sole 24 Ore. Oh. Queste le notizie su Radio 24 quando sono le 13:12 minuti e 3 secondi. In studio Daniele Biacchessi, le prossime alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.